284. Stufato di lepre. Vi descriverò più avanti il pasticcio di lepre e vi dirò anche come questa si cuoce arrosto. Aggiungo ora che per farla dolce e forte potete servirvi della ricetta del cinghiale numero 285 e che si può mettere in istufato nella seguente maniera. Prendiamo per esempio la metà di una lepre e dopo averla spezzettata tritate fine un battuto con una cipolla di mediocre grandezza, due spicchi d'aglio, un pezzetto di sedano lungo un palmo e diverse foglie di ramerino. Mettetela al fuoco con un pezzetto di burro, due cucchiaiate d'olio e 4-5 strisce di prosciutto larghe un dito. Quando avrà soffritto per 5 minuti, gettatevi la lepre e conditela con sale, pepe e spezie, rosolata che sia, bagnatela con mezzo bicchiere di vino bianco Marsala, poi buttateci un pugnello di funghi freschi o secchi rammolliti e tirate la cottura con brodo e sugo di pomodoro conserva. Ma prima di servirla, assaggiatela per aggiungere un altro poco di burro se occorre.